Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Settima puntata. Siccome il mare a metà settembre era una tavola, Montalbano si fece un lungo bagno. Appena uscito dalla doccia, ancora nudo e gocciolante, si piazzò davanti alla televisione. Le immagini erano quelle del funerale di Luparello che si era svolto nella mattinata. Squillò il telefono. Andò a rispondere. Era suo padre. Sì, pronto. Pronto, Salvo, come stai? Finalmente sei tornato a casa. Papà? Io sono. Ti volevo sentire. Ho provato tante volte, ma non ti trovo mai. Sì, ho molto da fare in questi giorni. Ho letto sui giornali. Ma come va? Come stai? Bene, bene, io sto bene. E tu come stai? Bene, bene. È una vita che non ci si sente, eh? Un anno preciso. Comunque io me la cavo. E Livia? Livia no, sta bene. Stava qui fino all'altro ieri. Salutamela. È una brava ragazza. Non ti voglio fare perdere tempo. Ti ho telefonato per il vino. Purtroppo quest'anno non ce la faccio a passare da Vigata. Ma te la faccio mandare a casa. Te la faccio portare. Quest'anno è buono il vino, eh? Papà, ma lascia perdere. Ma no. Un bicchiere te lo bevi. Ciao, Salvuzzo. Stai bene, eh? Mentre davanti a casa contemplava il tramonto assorto nel ricordo della telefonata del padre, Montalbano vide sopraggiungere inaspettatamente l'auto di Fazio. Fazio, commissario, ero di strada e ho pensato di passare. Tutto a posto. Tutto a posto, via. L'avvocato Rizzo la ringrazia e dice che troverà il modo di sdebitarsi. Speriamo di no. Di certi modi di sdebitarsi per l'avvocato molti creditori farebbero volentieri a meno. Senti, è stato da Saro? Sì, signore, gli ho consegnato anche l'assegno. Ho dovuto insistere con lui e la moglie, non si convincevano, pensavano fosse una babbiata. Poi quando hanno capito, si sono messi a baciarmi le mani. Le speragno tutto quello che il signore dovrebbe fare a sentire loro nei suoi confronti. Va bene, vattene a casa, va. Si avviò all'incontro con Ingrid Sjöström, la nuora di Giacomo Cardamone. Il commissario aveva preso appuntamento con lei per le 10 di sera, davanti al bar di Marinella. Il posto sarebbe stato sicuramente deserto. Montalbano aveva raccomandato alla donna di non parlarne con nessuno, manco col marito. Perché hai voluto vedermi? Ho voluto vederla perché devo farle qualche domanda. Senti, io do del tuo a tutti. Come ti chiami di nome? Salvo. Io mi chiamo Ingrid. Piacere, Ingrid. Rizzo ti ha detto che abbiamo ritrovato la tua collana? L'avrà detto a mio marito? Senti, toglimi una curiosità, ma tu sei abituata a perderle e a ritrovarle i diamanti? Perché? Ho appena detto che abbiamo ritrovato una tua collana che varrà un centinaio di milioni e tu non batte ciglio. I gioielli non mi piacciono, vedi, non è neanche nel matrimonio. Dove l'hai persa la collana? Avevo curiosità di vedere questa manara. Mannara. Ho convinto mio marito a portarmeli. Sono stata quasi aggredita e mi sono spaventata perché avevo paura che mio marito si mettesse a litigare. Allora siamo ripartiti e a casa mi sono accorta che non avevo più la collana. Ecco. Senti, ma se non ti piacciono i diamanti, com'è che te la sei messa proprio per andare alla manna? Non mi sembra un posto adatto per portare una collana. Perché nel pomeriggio ero stata con un'amica che voleva vederla. Senti, chiariamo subito una cosa, io sono un poliziotto, ma quello che ci diciamo io e te dentro questa macchina rimarrà qua dentro, chiaro? Io voglio sapere perché tuo marito ha scelto proprio Rizzo come avvocato. Non doveva? No, a ricordi logica no. Rizzo era il braccio destro di Luparello, cioè il più grosso avversario politico di tuo suocero, almeno dentro al partito. A proposito, tu lo conoscevi Luparello? Di vista, io non capisco un cavolo di politica. Mi sto annoiando. Pensavo che conoscere un poliziotto sarebbe stato più eccitante. Senti, guarda, allora visto che ti annoi tanto, Dai un'occhiata a questo. Montalbano le posò la borsa sulle ginocchia. La donna guardò e parve veramente sorpresa. Perché ce l'hai tu? È tua? Certo, guarda, ci sono anche le iniziali. Eh sì, sono state strappate, ma c'è rimasto l'impronta. Ma perché le hanno tolte? Non lo so. Andiamo? Dove andiamo? In un posto che tu conosci bene. Vedrai, ci sentirei molto a tuo agio. Erano arrivati all'altezza del viottolo che immetteva a Capo Massaria. Montalbano, che aveva accelerato come se volesse proseguire dritto, violentemente sterzò imboccandolo. In un attimo e senza una parola, Ingrid spalancò lo sportello. Agilmente scese dalla macchina in corsa, si diede alla fuga fra gli alberi. Il commissario saltò fuori dalla macchina e iniziò l'inseguimento. Ecco, così impari a fare queste stronzate. Si è fatta male? Sì. Brava, vai a vedere. Ingrid obbedì e con fatica arrivarono all'ingresso della villa De Loparello. Tanto non trovano niente. Sì. Montalbano aprì l'anta di sinistra dell'armadio. Aprì l'anta centrale. Ingrid fece una pausa. Tagliò a lungo il commissario negli occhi. Queste sono due? Mai portato una parrucca. Questi invece sono voi. E non ci dovevano più essere. E la borsa? Stava sempre nell'armadio. E la collana dov'era? Nella borsa? Nella borsa, eh? I vestiti nell'armadio, ce li hai messi tu o ce li ha messi qualcun altro? Ce li ho portato io. E l'amante di Luparello? No. Ci sono stata a letto una volta sola, anni fa. Mi hai portata qui. Dopo mai più, ma siamo diventati amici. Amici veri, come non mi era mai successo con un uomo. Vabbè, ma l'unica volta che siamo da qua ti sei portato jeans, vestiti, mutandine, collana, borsa. No. Dopo qualche tempo gli ho chiesto se poteva usare questa casa ogni tanto. E lui mi ha detto di sì. Non voleva nemmeno sapere chi ci portavo. Mi ha chiesto solo di non dire mai chi era il proprietario. E qui ci portavo un solo uomo. Sempre lo stesso. Uno che da 2 anni è entrato per forza nella mia vita. Perché io, dopo, non volevo più. Dopo? Dopo la prima volta. Mi ha fatto paura. È ossessionato da me. E quando lo porto qui, mi si butta addosso. Diventa violento, mi strappa i vestiti. È per questo che ricambi nell'armadio? Non possiamo andare a parlare da un'altra parte. Questo posto mi fa tristezza. Nessuno dei due aveva voglia di parlare. Se ne stettero per un quarto d'ora in silenzio. Ma il commissario, ancora una volta, stava cedendo alla sua natura di sbirro. E defatti, giunto all'imbocco del ponte che sovrastava il Canneto, arrestò l'automobile. Senti un attimo, ti devo far vedere una cosa. Vedi, questo è il grado del fiume. Arriva giù, fino alla mano. Ce la faresti a farlo con la macchina? Ti sei informato bene su di me? Non lo so, ma se vuoi ci posso provare. Prova. Ingrid salì in macchina e partì. Bastarono pochi secondi perché Montalbano perdesse di vista la luce dei fari. E buonanotte. M'ha pegliato poco culo. E mentre si disponeva alla lunga camminata verso Vigata, la udì tornare, il motore che urlava. Forse ce la faccio, dammi un fazzoletto. Io ci provo, commissario, ma hai visto anche tu che ho un piede che mi fa male? Devo correre? No, no, basta che arriviamo, se ne salvo. Monta, dai. Metti la cintura? Hai visto, commissario, ho superato l'esame. Accidenti, sei veramente bravo. Lo possono fare tutti, ma bisogna arrivare in fondo con la macchina sana. E la mia lo è? Provala. No, no, non ti preoccupare, mi vedo. È qui che hanno trovato Silvio, vero? Sì, e dietro il muro della vecchia fabbrica ho trovato la tua borsa. Salvo, non sono stata io. Ti giuro che di questa storia non ci capisco niente. Quando arrivarono alla casa di Montalbano, Ingrid non ce la fece a scendere dalla vettura. Il commissario dovette circondarla con un braccio alla vita mentre lei si appoggiava alla sua spalla. Si incamminò zoppicando, sorreggendosi ai mobili e alle pareti. Porca miseria, mi fa male, cane. No, ma scusa, stendi là che ti faccio una fasciatura, dai. Ecco, stendi lì, mettiti comoda, arrivo subito. Pronto, Gegè? Montalbano sono. Sei solo, puoi parlare? Ti devo chiedere un nome, però voglio una risposta precisa perché è una cosa della massima importanza. Allora. Gegè non ebbe difficoltà a farlo, quel nome, e per buon peso aggiunse anche un soprannome. Il commissario Montalbano, la forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Peppino Mazzotta, Isabel Solman. Musiche originali di Franco Piersanti, realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it